Siamo in collegamento con Anna Meli, responsabile settore media e diversità culturali. Con lei facciamo il punto sul progetto Equal, l'immagine degli immigrati in Italia, e sul seminario che si terrà domani ad Empoli dal titolo Donne migranti nella comunicazione. Questo è un seminario che è appunto conclusivo di questo progetto Equal, è un progetto che è durato 2 anni e mezzo. Un progetto che ha visto nascere, diciamo, e sviluppare diversi prodotti e attività, fra cui un'agenzia dedicata e prodotta proprio da persone di origine immigrata che si chiama Agenzia Migra, e il COSP per la Toscana ha rappresentato un po' il coordinatore della redazione toscana dell'Agenzia Migra. E proprio tramite questa attività abbiamo individuato un gruppo di donne di origine immigrata che avevano una qualifica nel paese d'origine, una professionalità che non riuscivano a spendere qua se non a livello puramente di volontariato nelle piccole emittenti locali, televisive e radiofoniche, e quindi abbiamo pensato di concentrare quest'ultimo seminario finale proprio su questo aspetto qui delle donne che sono di origine immigrata, che sono impiegate in questo tipo di attività nei media. Perché scegliere proprio le donne? In particolare in Toscana, devo dirti, sono quelle che hanno promosso, diciamo, di più dal punto di vista di piccole trasmissioni radiofoniche, televisive, giornali su carta stampata, e in più, come dicevo prima, era interessante proprio vedere il percorso, perché magari sono donne che appunto nel paese d'origine o facevano il tecnico alla televisione ucraina, per dire una, oppure faceva proprio la giornalista nella televisione albanese, che qui si trovano a fare altre lavori come occupazione, ma che negli tagli di tempo, nel tempo libero, vogliono continuare comunque a occuparsi di comunicazione, e quindi hanno messo su la piccola trasmissione radiofonica, una trasmissione televisiva sulla emittente locale di Pisa, eccetera. Ecco, ci sembrava interessante valorizzare queste e capire insieme agli interlocutori locali, dalla regione al comuni che domani parteciperanno, come è possibile in qualche modo cercare di incanalare queste professionalità in un percorso anche di occupazione e quindi di lavoro. E quindi la sfida di domani sarà un po' cercare di capire se è possibile, diciamo, alla fine di un progetto partirne e cercare di farne uno nuovo, insomma, che coinvolga queste donne. Chi fosse interessato come potrà fare per seguire i lavori? Domani appunto si svolge questo seminario dalle 10 alle 18 a Empoli, al convento degli Agostiniani, che è in via De Neri 15, ed è facilmente raggiungibile dalla stazione. Chiaramente è un seminario aperto in cui appunto interverranno vari interlocutori del territorio, dall'assessore alle pari opportunità della provincia, della regione, ma appunto soprattutto le varie rappresentanti di queste trasmissioni, di queste iniziative, sia del progetto L'immagine degli immigrati, per cui avremo delle donne capoverdiane, delle rappresentanti dell'Agenzia Migra e tutte le corrispondenti appunto dell'Agenzia Migra a livello toscano. Lorenzo Nania, Amisnet.